Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho seguito la conferenza stampa in cui Veltroni avrebbe dovuto spiegare il motivo delle sue dimissioni da segretario del PD e sinceramente non ho capito nulla o quasi. Dice di aver fallito nel suo progetto, ma in cosa in particolare? E perché? Non ho sentito un'analisi di quello che ritiene essere stati i suoi errori. Certo, le dimissioni arrivano a seguito della sconfitta in Sardegna, ma non ho capito in cosa Veltroni ritiene di aver sbagliato nella sua guida del PD. Su quali punti? Su quali scelte? Anzi, nel suo discorso ha riaffermato di credere nelle bontà delle sue scelte di fondo, e ci mancherebbe, ma non una parola su quelle contingenti. E su queste ci sarebbe molto da dire. Così il suo ripetere «ho sbagliato io, me ne assumo la responsabilità» mi è sembrato molto retorico, ironico, fatto apposta per strappare dei «no, no, sei un grande, rimani, i cattivi sono gli altri». E la sua frase «il mio errore è che voglio tenere unite le persone, sono fatto così». La trovo perfetta per far scendere le lacrime a chi tanto ha creduto in lui. Ma cosa altro? L'unica cosa che mi pare di aver capito è che addita sicuramente una parte di colpa a Berlusconi e ai suoi successi elettorali. Chiaro, ma non può sottrarsi ad una risposta seria alla domanda sul perché la maggioranza degli italiani abbia votato e voti centrodestra, anziché limitarsi semplicemente a dire che sbagliano e, poverini, sbagliano senza nemmeno sapere di sbagliare, tanto sono anestetizzati da Berlusconi. Michele. Non esiste nessun sicario di Veltroni. Politicamente parlando, Veltroni si è suicidato. Non si può condurre il proprio progetto politico cercando solo di demonizzare l'avversario. Non si può nutrire un odio viscerale che trasuda in tutti i suoi discorsi verso Berlusconi e insultare continuamente i relativi elettori. Il PD non ha l'esclusiva dell'etica, della giustizia, della correttezza e così via. In democrazia vince chi prende più voti. E tutti i voti sono ugualmente dignitosi. Purtroppo mi sembra che Veltroni viva su Marte, forse perché è il pianeta rosso. Spero che chi lo sostituirà cambi modo di condurre il partito. Ma ci credo poco. Roberto, Brescia. Credo che Veltroni abbia fatto un atto da signori. Si è dimesso. Un'azione dimenticata nella nostra società. Ma da compagno non erano le sue dimissioni che mi aspettavo. Anzi, voglio essere chiaro, prime donne come D'Alema, Rutelli e molti altri, è ora che si tirino da parte. Io personalmente contesterò per sempre a D'Alema di non aver fatto chiarezza con Unipol, eccetera. Certamente ora voteremo un altro segretario, ma a cosa ci serve? Facciamo un bel raduno generale, sentiamo che cosa hanno da dire i nuovi senatori e i nuovi deputati, quelli che da poco sono immischiati con i giochi di potere e che per questo si ricordano ancora da dove vengono e perché sono lì. C'è una canzoncina che dice «Per fare l'albero ci vuole il seme». Una sacrosanta verità. Il PD è una pianta innesti. Le radici non tengono. In una quercia si è messo un ramo di ulivo, uno di margherita, uno di cicoria, eccetera. Non sbagliamo ancora per fretta. Piantiamo il nuovo seme, aspettiamo le radici e curiamo ciò che nasce. E se i giardinieri che abbiamo sono incompetenti, come finora hanno dimostrato, cambiamoli. L'Italia è piena di brava gente. Bravi giardinieri, brave persone, gente stanca e sfiduciata, ma che alla prima visione di un buon progetto saprà risvegliarsi. Si rimboccherà ancor di più le maniche per zappare e innaffiare la nuova pianta e sicuramente lo faranno tutti assieme, con spirito di collaborazione. Rudy. Veltroni se n'è andato, prendendosi per una volta la responsabilità del fallimento di un progetto. Se la rinuncia alla scorta non sarà una manfrina populistica, ha tutto il mio rispetto. Se veramente andrà in Africa a fare volontariato e non a proporre un'emanazione delle coop, avrà la mia ammirazione. Me lo guarderò volentieri mentre aiuta a scavare un pozzo e magari mi farà venire voglia di passare le mie ferie ad aiutarlo, per quel che posso. Ma ora è chiaro che il progetto per poter avere una sinistra moderna, alternativa, da poter votare con tranquillità quando un centrodestra molle e insoddisfacente ha bisogno di un segnale, è tramontato. Non è una bella cosa, perché viene a mancare il pungolo della concorrenza. Quanto dovremo attendere ancora prima di avere un leader credibile, alternativo, non post-comunista votabile? E quanto dovremo attendere ancora per avere un giovane che possa sostituire battute infelici, populismo, amicizie scomode. Che desolazione. Mario. Scrivo a proposito delle polemiche scatenate dalla battuta di Berlusconi sui desaparecidos. Berlusconi ha detto: fa ridere, ma è drammatico. Quindi non erano parole in totale incoscienza e libertà. L'ironia è una scelta di vita. Mia nonna, tra ilarità e amarezza, ironizzava sui posti improbabili nei quali si nascondeva durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e anche sulla sua amica grassa che, per ripararsi durante un attacco aereo, si infilò in una fogna e vi rimase incastrata. Sopravvisse senza ferite. E allo stesso modo, mio nonno ironizza su come, dopo una disfatta, si fosse riparato dietro ad un alberello sottilissimo durante un massiccio bombardamento dell'aviazione inglese sulle truppe italiane del tutto impreparate in Grecia. In merito alla vicenda di Berlusconi, direi che dall'Argentina abbiamo solo da imparare. D'Alema non convocò gli ambasciatori quando, per la vicenda Ocalan, molti turchi davano la caccia agli italiani. Allo stesso modo, questo governo non l'ha fatto con la Spagna, dopo le bordate di alcuni ministri, e con l'Irlanda, dopo una vicenda simile, sempre avvenuta nella scorsa estate. Comunque, conoscendo il personaggio Berlusconi, non c'è da meravigliarsi. Ma non credo che ci sia da indignarsi o da stracciarsi le vesti. Soprattutto dovrebbero evitarlo gli elettori di Di Pietro se conoscono le sue innumerevoli uscite incongrue. Marco. Egregio direttore, sono una ragazza di 26 anni che ha conseguito la laurea specialistica in scienze della comunicazione circa un anno fa. Voglio sottolineare che è stata conseguita senza andare fuori corso. Desidero riassumerle brevemente la mia vita lavorativa fino ad oggi. Sono sempre stata una persona molto attiva ed impegnata. Ho svolto tanti lavoretti durante il periodo universitario e, come molti miei coetanei, ho fatto anche delle esperienze di stage. È proprio questo il mio problema. Non riesco ad uscire da questo turbine di contratti di stage. Ho iniziato nel 2002 con un contratto di 6 mesi presso un ufficio stampa, rinnovato di ulteriori 6 mesi. Definirlo sottopagato è dire poco. Ricevevo un rimborso spese di 250 euro per un lavoro part-time. Trattandosi della prima esperienza seria, all'epoca ne ero anche contenta. Ho deciso di abbandonare quando, dopo il contratto di stage, mi hanno offerto un contratto a progetto di qualche mese. La retribuzione era inferiore al rimborso spese dello stage, perché il mio contratto adesso costava di più e quindi dovevo contribuire anch'io al mio mantenimento. Dopo qualche tempo ho trovato un altro stage in un canale televisivo abbastanza noto e ho accettato, anche se non ho mai ricevuto alcun compenso. Altri 6 mesi sono passati così. Al termine ho ricevuto un'offerta di lavoro, se così si può chiamare. Un contratto che veniva rinnovato di mese in mese all'invidiabile cifra di 350 euro al mese. Considerando che per ogni pezzo che producevo, loro ricevevano proprio quella cifra e in un mese ne realizzavo circa 8. Dopo innumerevoli rinnovi, ho deciso che non si trattava della mia strada. Non potevo rimanere in bilico ogni volta fino al giorno della scadenza del mio contratto, sperando che mi chiamassero i responsabili e mi proponessero di rimanere con loro altri 30 giorni. Nel frattempo, ho conseguito la laurea specialistica e ho provato a cercare lavoro. Ma non ci crederà, mi contattavano solo per offrirmi altri stage. Stage che non erano né finalizzati all'assunzione né rimborsati adeguatamente. Alla fine mi sono arresa. Da 6 mesi sono in stage nella redazione di un altro canale televisivo. Ovviamente non ci sono grosse prospettive di inserimento e del mio futuro non so ancora nulla, nonostante sia in scadenza di contratto. La politica aziendale è quella di sostituire gli stagisti al termine del contratto di stage, sa perché? Perché non hanno abbastanza esperienza per meritare un contratto a progetto o a tempo determinato. Ma lo sa qual è la cosa realmente buffa? Per questo ennesimo stage mi hanno chiesto esperienza. Ora chiedo consiglio a lei, che lavora da anni nel mondo della comunicazione, lo conosce meglio di me. Ma gli stage non erano finalizzati a fornire competenze ai laureandi neolaureati e a favorire l'inserimento in azienda? Mi reputo una persona intelligente, imparo velocemente, sono attiva, curiosa, propositiva e ho maturato più di 2 anni di esperienza nel medesimo ruolo. Perché persino i datori di lavoro confermano queste mie qualità, ma mi considerano una risorsa solo se non devono spendere un centesimo? Perché quando arriva il momento di firmare un contratto vero, tutti scappano? E per vero non intendo il tanto osannato contratto a tempo indeterminato, ma qualcosa in più che un semplice stage o un contratto a progetto. Sono un pollo da spennare e dopo di me ne troveranno altri e così via. Molti sui giornali scrivono che il lavoro c'è, Certo, sono i contratti che mancano e i soldi. Un saluto da Elisabetta, una sua ascoltatrice disillusa. Cara Elisabetta, non è facile dare un consiglio e soprattutto una speranza a giovani come lei che hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Non è facile, anche perché la crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo ha complicato enormemente le cose. È già difficile salvaguardare l'occupazione che c'è. Diventa estremamente complesso cercare di creare nuovi posti di lavoro. Anche perché in Italia gli strumenti a disposizione, in particolare i contratti, rispondono a logiche che non sono più adatte a migliorare le dinamiche attuali del mercato del lavoro. Ma la riforma della contrattazione, per rendere più facile, anche se più flessibile, l'occupazione dei giovani, ha sempre suscitato la netta opposizione del sindacato e quindi la resa della politica. La crisi potrebbe essere un'opportunità per sollecitare qualche cambiamento, anche se i segnali che giungono fino ad ora rendono amaramente più concreta la volontà di salvaguardare i diritti acquisiti che quella di trovare risposte nuove alle esigenze dei giovani. Alexandru Loios, uno dei due romeni accusati dello stupro della ragazzina di 14 anni, era già stato arrestato due volte per rapina ed era stato espulso dall'Italia dal prefetto di Viterbo. Ma il provvedimento di espulsione era stato poi annullato dal giudice onorario del Tribunale Civile di Bologna, Mariangela Gentile, in quanto il romeno non era ritenuto pericoloso. Ora però, far pesare sul magistrato l'onere della decisione di annullare il decreto di espulsione mi pare inadeguato. Il problema è, il magistrato ha applicato la legge? Se sì, ogni polemica è inutile, anzi, dannosa, dato che andrebbe ad aumentare la sfiducia nella giustizia. Se il romeno fosse stato rimpatriato e avesse commesso l'abominevole reato a Bucarest, la povera vittima avrebbe avuto diritto alle stesse rimostranze, oppure il fatto che l'aggressore fosse suo compatriota le avrebbe fatto perdere tale diritto. Il dato di fatto è che non si può vivere o far vivere in una prigione perenne. La delinquenza è un aspetto della società della quale bisogna difendersi sia con la prevenzione sia con la pena, che però deve essere certa. E non si capisce il motivo per cui non si riesca a trovare il modo di fare un decreto apposito in questo senso. Stefano. Il capo dei Rom in Italia non fa che lamentarsi perché i Rom vengono trattati male ed emarginati. A mio parere, ha perso un'occasione d'oro non denunciando, o meglio ancora, non consegnando alla polizia i due stupratori, dei quali conosceva sicuramente il nome e ai quali ha dato aiuto. Se avesse fatto tale mossa, la sua credibilità e quella di tutto il popolo Rom ne avrebbe avuto un immenso vantaggio. Così non è stato. Peggio per lui. Giorgio. Egregio direttore, in questo periodo si sente tutti i giorni fra TV e radio di episodi di violenza nei confronti del più debole, come ad esempio di stupri o aggressioni varie nei confronti delle donne. L'emergenza è reale e sentita, e non si può dire che sia una semplice fobia. Chi delinque in Italia è comunque tutelato, a differenza di altri paesi. Questo è un paese democratico in tutti i sensi, e i criminali ci sguazzano, specie se stranieri, abituati come sono ai regimi totalitari. Ma la cosa che comunque mi lascia perplesso è lo spiegamento di forze a Sanremo per il festival. Troppe forze dell'ordine occupate per una manifestazione musicale, impegnati per lo più a fare da scudo a cantanti e presentatori. Non sarebbe più utile occuparli in azioni più utili per la protezione della cittadinanza? Cesare, Cremona. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.